A mio parere c'è una cosa che richiede l'immediata attenzione di noi tutti. Dobbiamo pensare al nostro futuro. Ma non in questo momento, Spack. Ci vuole almeno un po' di tempo prima che passi. Capisco i suoi sentimenti, capitano. Lei parla di sentimenti di un altro. Ma lei che cosa prova, Spack? I miei sentimenti non costituiscono un argomento di discussione, dottore. Perché non ci sono sentimenti su cui discutere? Signor Spack, Chekhov è morto. Lo dico, eppure non riesco ancora a crederci. Era un suo stretto collaboratore e merita almeno un po' di considerazione. Spack non sa cosa sia il dolore, Scott. È cosa umana. Bones, Scott. Capitano, lasci perdere. Dimenticano che anch'io ho sangue umano. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Non avere dato quell'ultimo bacio a mia madre non mi crea rimpianto, perché il rimpianto è una cosa dolce. Ho un gran rimorso che mi lacera l'anima. Mio padre aveva avuto un infarto e aveva deciso di vivere la fine senza questa moglie dilagante e stare con il suo grande amore, che ovviamente non era mia madre. Storie di baci non dati e di personaggi di Star Trek in una puntata dedicata al rimorso. L'abbiamo capito qui nella redazione di Linee d'Ombra con le settimane. Man mano che passavano le settimane, i mesi, e man mano che arrivavano le storie che ci inviavate e che continuate a inviarci a lineedombra@radio24.it, per le quali ovviamente noi vi siamo molto molto grati. Insomma, lavorando con le storie legate ai vizi capitali, ma legate soprattutto al concetto di linea d'ombra, cioè di linea di confine tra il buio e il giorno, tra la luce e la notte. Insomma, abbiamo capito che effettivamente tutte le storie, quando le raccontiamo, nel momento in cui decidiamo di raccontare, di condividerle, parlano di un confine, parlano di una linea oltre al quale siamo andati. Altrimenti, come raccontano i grandi esperti della narrazione, se il protagonista di una storia se ne sta a casa sua, non succede niente. Se invece esce, scopre e si infila in un mondo che non conosce, lì avviene tutto quanto, lì succede la storia. Ed è proprio la caratteristica di tutte le storie che ci arrivano qui a Linee d'Ombra. La puntata di oggi è una puntata molto, molto particolare, molto sottile, in parte anche dolorosa, se vogliamo. Una puntata che è dedicata al rimorso. Noi abbiamo aperto con, lo avrete riconosciuto se siete probabilmente della mia generazione, con il suono di un telefilm, si chiamavano ancora telefilm e non serie televisive, che era Star Trek. In questo episodio c'erano il capitano Kirk, c'è un altro personaggio di cui non ricordo il nome, e poi c'era Spock. Che anche lì, Spack, fino a un certo punto in Italia si è chiamato Spack, poi a un certo punto ha cominciato a chiamarsi Spock, non so per quale motivo, non sono un esperto di Star Trek e tantomeno di serie TV e tantomeno di fantascienza, però evidentemente deve esserci stato qualcuno che dagli Stati Uniti ha detto guardate che si chiama Spock e deve chiamarsi Spock dappertutto, e quindi è diventato Spock. Insomma, Star Trek prima era un telefilm un po' vetusto, poi è stato ripreso, ha degli amanti e dei fan sfegatati, è diventato una serie di film, ora di nuove serie televisive. Uno degli autori di questa serie televisiva, la nuova serie televisiva che si chiama Star Trek Picard, o Picard, perdonatemi, non ne conosco la pronuncia corretta, si chiama Michael Chabon. Michael Chabon è una delle persone che ha scritto questa nuova serie televisiva e oggi sentiremo una sua storia che parla proprio di Spock e del padre che è davanti a lui, che è di fatto negli ultimi momenti della sua vita. E l'abbiamo messo insieme alla storia di Tiziana, che parla proprio di questo, parla di quello che si dice e soprattutto quello che non si dice alle persone care un attimo prima che se ne vadano. Ci sono dei casi in cui noi lo sappiamo che le persone care se ne stanno andando, altre in cui invece non lo sappiamo, esattamente come il suo caso, e probabilmente in quei casi il rimorso, e questo è il tema delle storie di oggi e di questa puntata di Linee d'Ombra, chiaramente morde molto molto molto molto forte. Cercheremo di capire anche qual è la differenza tra rimpianto e rimorso, lo capiremo grazie a uno psicologo che ce la spiegherà sicuramente meglio di come posso fare io, quantomeno se si fa una ricerca il primo rimorso più profondo, quello quello che porta al senso di colpa e addirittura in quel caso al suicidio e al rimorso di Giuda. Per cui Giuda vende Gesù Cristo e quando lo ha venduto e si accorge di quello che ha fatto, primo cerca di restituire il denaro in cambio del quale aveva venduto Gesù e poi soprattutto si toglie la vita perché il rimorso è troppo forte. Capiremo che cos'è anche il rimpianto e lo capiremo come sempre attraverso le storie che stiamo per raccontarvi. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Avere una mamma come lei è sempre stato ingombrante. Era figlia unica e nonostante dicesse di no, voleva sempre essere al centro dell'attenzione e tutto quello che faceva era sempre eccessivo. Le piaceva una cosa da mangiare? Per 6 mesi si mangiava solo quello. Le piaceva una maglietta? Ne comprava 7 uguali. E io, bambina, già a 5 anni, sentivo di subire questi suoi atteggiamenti sempre esagerati. Fu esagerata, ovviamente, anche quando mio padre la lasciò nel gennaio del 74, dopo 17 anni di matrimonio. Aveva avuto un infarto pochi giorni prima ed era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Forse davanti alla possibilità di morire, dentro di lui è scattata una valvola di sopravvivenza. Vivere la fine senza questa moglie dilagante e stare con il suo grande amore, che ovviamente non era lei, non era mia madre. Un pomeriggio, infatti, mia madre, rientrata dall'ospedale, svenne sulla soglia di casa dicendo: «Papà, non torna più a casa». Mio padre è tuttora un padre giovane, perché ha solo 25 anni più di me. Quindi era un padre che negli anni 60 era un padre in carriera, uno che ha cominciato a vendere libri porta a porta e si è ritrovato dirigente, direttore commerciale, anzi, della più grande casa editrice che avevamo all'epoca in Italia. E quindi era un padre bello, affascinante. E io, quando ero piccolina, dicevo che era più bello di Gianni Morandi, perché era il grande amore mio, Gianni Morandi. E per cui, fino al punto in cui lui decise di andarsene, il 13 gennaio del 1974, per me era il grande amore della mia vita. E mi si è spezzato anche un sogno d'amore, oltretutto. Quello fu l'inizio della fine, della sua fine, cioè di mia madre, e dell'inizio della mia vita da adulta. Avevo 14 anni e mezzo. Anche io, figlia unica, bravissima a scuola, ragazzina cicciottella e schiva, sicuramente anche un po' antipatica ai miei compagni di classe. Furono anni pesanti perché gli eccessi vennero ancora più a galla. Lei cominciò a bere tanta vodka e gin, perché costavano poco, a fumare tantissimo, 3 pacchetti di sigarette al giorno. Poi, essendo sempre ubriaca, non buttava mai la cenere, ne perdeva ovunque per casa. Avevamo la moquette, tipica delle case degli anni 70, ed era a pois per tutte le volte che a mia madre cadeva la sigaretta accesa mentre camminava barcollando. La trovavo spesso al mio rientro da scuola stesa per terra con la sigaretta ancora accesa, la lavavo e la mettevo a letto. Ai superalcolici univa quotidianamente una decina di barbiturici tra Tavor e Mogadon. Ovviamente cominciai ad andare male a scuola, arrivando a stento alla sufficienza, ad ingrassare ulteriormente, ma la cosa peggiore, ad odiarla. Odiare lei, che si occupava solo di sé e del suo dolore. Odiare mio padre, che sapeva solo propormi di lasciarla e di andare a vivere da lui. Da precisare che in 3 anni tentò 6 volte il suicidio. Fui sempre io che salì con lei in ambulanza e al ritorno dalla lavanda gastrica chiamavo un taxi per riportarla a casa. Se chiedevo a mio padre di raggiungermi, mi rispondeva: «Vienitene via, affari suoi». E quindi smisi di chiedere aiuto. To fade away, my. Ma l'ira e la rabbia nei confronti di questi due genitori egoisti cresceva in me. Anche oggi che ho 60 anni, la mia speranza è di non assomigliare a nessuno dei due. Questa vita durò dai miei 14 anni e mezzo fino ai 23. Una mattina che mia mamma non riusciva nemmeno a chiudere la macchinetta del caffè perché troppo ubriaca alle 7 della mattina, la picchiai. La picchiai fino a farle male. Le dissi che se non avesse smesso io non avrei più voluto vederla. Lei capì che facevo sul serio e smise. Da quel punto lei non era più la stessa persona. Gli alcolisti quando smettono sono puliti, sì, ma spesso vengono assaliti dalla depressione e a mia madre questa patologia, all'epoca ancora poco conosciuta, non la lasciò più. Mi sposai nel frattempo mettendo al mondo due bambini che divennero la luce degli occhi di questa splendida nonna. Fu l'unico ruolo della sua vita che interpretò alla perfezione. E io ero felice, ma nello stesso tempo provavo verso di lei e naturalmente anche verso mio padre una totale assenza di sentimenti benevoli. Con mia madre ogni occasione era buona per litigare o discutere. Il 2 luglio del 1992 mia mamma partì per un viaggio organizzato verso la Russia e le regioni baltiche. Il pomeriggio prima della partenza andai con i bambini a salutarla e, non ricordo per quale motivo, discutemmo. E come sempre facevo, e non lo facevo mai con nessun altro, le urlai contro. Sapevo di avere ragione e al momento dei saluti mia madre mi disse: «Ma non mi dai un bacio?» E io, arrabbiatissima, le dissi: «No, te lo do quando torni». Con mia madre litigavo piuttosto spesso, era un rapporto molto conflittuale. Era il 2 luglio e doveva partire per un viaggio molto lungo, di circa 22 giorni. La ricordo molto contenta di quel viaggio, perché per lei quel viaggio era realizzare il sogno di andare a vedere San Pietroburgo, Mosca e le regioni baltiche. C'è stato un momento che non riesco, eppure è un giorno che ha segnato la mia vita, io non riesco a mettere a fuoco il motivo della discussione. So solo che ero furibonda e ho alzato la voce, quindi ricordo lei felice e io con questa urlata che ho spento questa sua felicità. La mattina del 19 luglio mi chiamarono da Tallinn chiedendomi prima se fossi la figlia e poi annunciando: «Signora, sua madre è stata trovata morta stamattina nella sua stanza d'hotel». La mia vita ha un prima della morte di mia madre e un dopo la morte di mia madre. È la storia di un bacio non dato per colpa dell'ira che mi perseguita da quel giorno. Verso l'ora di pranzo venne mio padre a casa e disse che avrebbe chiamato il Messaggero, il quotidiano di Roma, per fare il necrologio e avvisare le persone, si usava così all'epoca. Mentre parlava con la redazione, erano le 14 precise del 19 luglio del 92, sentii un gran casino al telefono, tutti che urlavano, lui faceva molta fatica a dettare. Chiuse la telefonata, mi guardò e mi disse: «Accendi la TV, ho sentito tutti che urlavano dicendo che hanno ucciso Borsellino». Io accesi, stavano interrompendo le trasmissioni per un'edizione straordinaria. Quel giorno segnò l'inizio di un rimorso che mi porto ancora dentro, insieme all'ira contro di lei, che oltre ad avere reso invivibile la mia adolescenza e gioventù, si era permessa di lasciarmi sola con un padre inutile a 29 anni. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Ci sono storie che sono probabilmente più al confine delle altre. Si parlava, insomma, lo dicevo poco fa, si parlava di linee d'ombra e di linee di confine a proposito di gran parte, quasi tutte le storie che ci arrivano qui in redazione, ma in questo caso, diciamo, vale ancora di più, perché la linea del confine tra l'amore e l'odio per una persona cara com'è la propria madre è davvero sottile, ed è il motivo per cui noi siamo anche molto grati a Tiziana per averci raccontato questa storia e per avercelo fatto e per averlo fatto in questo modo. Pronto, ciao Tiziana, buongiorno. Ciao a tutti, buonasera. Senti Tiziana, sono passati 28 anni, era il 1992, tu dici di fatto in tutti questi anni continui a provare questa sensazione di rimorso profondo nei confronti di quel bacio che non hai dato a tua mamma? Sì, sì, assolutamente. Non c'è giorno in cui io non pensi a questo fatto, anche adesso che lo sentivo in radio. Mi ha straziato il cuore, nello stesso tempo mi sembra quasi una storia non mia, però è così, tutti i giorni. Tu hai lavorato con qualcuno, l'hai raccontato a un analista, uno psicologo, qualcuno con cui cercare di andare a fondo e capire le ragioni, magari anche di tua madre, non solo le tue, per quello che è successo, per come è andata il vostro rapporto? Sì, subito dopo l'avvenuto, quando mia madre è mancata, anche in seguito a quello che c'era stato precedentemente, io ho provato questo dolore immenso e nello stesso tempo, mi vergogno a dirlo, quasi un senso di liberazione. E quindi sono andata in analisi, ma per circa 7-8 anni. Francamente l'analisi non ti cura, non risolve, però mette in chiaro quello che sta succedendo, gli dà una motivazione e lo rende sopportabile. Sì, insomma, il fatto che gli dia un ordine però non risolve la situazione, no. Diciamo così. Con tuo padre, che è ancora vivo, mi sembra di capire, giusto? Sì. Che rapporto hai oggi? Di dovere. Lui mi vuole molto bene a modo suo, anche se è una persona che quando ama distrugge. E io sono una persona con un grosso senso del dovere, quindi faccio tutto quello che si deve fare, cercando di trasmettergli un affetto che non ho, non è così profondo. Senti Tiziana, sia nelle parole che tu usi nella storia, sia anche devo dire nel tono di voce che si percepisce, poi insomma siamo al telefono in radio, quindi non è probabilmente il tono di voce che si potrebbe avere in una telefonata comune, però ho la sensazione che tu non ti perdoni quasi nulla, cioè sei no. Molto rigida con te stessa. Non mi perdono nulla, perché non mi perdono intanto di non saper perdonare, però ci ho provato tanto. Senti, cosa hai fatto poi nella tua vita, oltre ai due figli che appunto erano la gioia di tua madre? Lo dici espressamente, è stata bravissima come nonna. Ah, una nonna eccezionale. Veramente mise da parte tutte quelle sue peculiarità che avevano fatto di me una persona imbarazzata. Mia madre mi imbarazzava, ecco, penso che sia la parola giusta. Io ho lavorato, ho fatto per 25 anni l'insegnante, dopo sono passata dietro la scrivania e non ho fatto nulla di speciale, oltre che due figli e vivere una vita tranquilla, non serena ma tranquilla. L'ultima cosa Tiziana, poi ti ringrazio, immagino che non sia nemmeno facilissimo parlarne, l'esperienza che hai avuto come figlia, a prescindere dal padre o la madre, ma l'esperienza che hai avuto come figlia ti ha aiutato in qualche modo nell'esperienza di madre? Molto. Intanto guarda, principalmente di non fare errori del genere, di non invadere mai la vita dei figli e di essere sempre una rete, mai una, come si dice, un'armatura addosso. Mm-hmm. E poi di tenere per me nel più possibile dei casi le mie ansie e di non trasmettergliele. Sì, chiarissimo. Essere diversa, ecco, Tiziana, ti ringrazio moltissimo. Se hai voglia di rimanere con noi all'ascolto, tra poco racconteremo un'altra storia molto interessante di un uomo che saluta suo padre e magari in qualche modo noi l'abbiamo trovata vicino alla tua storia, magari ti può essere d'aiuto. Grazie davvero, grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao Tiziana. Ciao. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile? Anche io ho una storia da raccontare. Ecco, se ti è accaduto, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un vizio capitale, uno dei 7 antichi o uno dei nuovi vizi, quelli in cui incappiamo ogni giorno nel corso delle nostre giornate. E poi spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Una storia molto intensa per le 3 del pomeriggio di un mercoledì, quella che ci ha raccontato Tiziana, e davvero grazie per averlo fatto. Visto che le storie funzionano come un circolo virtuoso, per cui se si racconta la storia di un grande rimorso perché non si è dato un bacio alla madre prima che partisse e poi non la si vedesse più, oppure non si è detto qualcosa a una persona cara e poi non si è più avuto l'opportunità di dirglielo, magari ce l'avete una storia così, volete condividerla, avete diversi modi, potete scriverci a lineadombra@radio24.it, scrivercela in una o due pagine, oppure mandarci anche un WhatsApp 349-238-6666. In questo momento, se avete un grande rimorso che volete condividere anche in audio, noi lo prendiamo e poi in qualche modo ci costruiamo una storia. Continuiamo a raccontare la storia di, in realtà, un uomo che fa di tutto per non avere rimorsi. Quell'uomo è Michael Chabon. Michael Chabon è uno scrittore, è un fumettista ed è uno sceneggiatore. È americano ed è probabilmente, appunto, abbiamo aperto con un pezzo di Star Trek. È uno, oltre che essere stato un grande amante di Star Trek da ragazzo, è uno degli sceneggiatori dell'ultimissima serie televisiva di Star Trek, quella che credo sia online su Netflix, credo su Amazon Prime in questo momento, si chiama Star Trek Picard. Lui è uno dei principali sceneggiatori e questa storia che sta per raccontarci, la scritta per il New York Magazine, è proprio ambientata nel momento in cui stava scrivendo quella sceneggiatura lì. Lui appunto ci racconta in questo passaggio come al capezzale del padre che sta diciamo vivendo gli ultimi momenti della sua vita gli confessa il suo amore per il dottor Spock sin da quando era un ragazzino, proprio per il fatto che Spock gli ricordava esattamente lui, suo papà. State con noi. Il sergente Spock, un ufficiale molto giovane, un vulcaniano, appena uscito dall'Accademia della Flotta Stellare, è appena arrivato sull'Enterprise. Si ritrova da solo in un turbo ascensore insieme al formidabile primo ufficiale della nave. È una donna, una umana, si chiama Numero Uno. E sono lì, entrambi, ad aspettare me, lo sceneggiatore, che li salvi dal silenzio che regna in tutti gli ascensori. Sono lì, sullo schermo del mio iPad. Io alzai lo sguardo proprio dal mio iPad verso mio padre, che giaceva incosciente al buio tra i tubi e i fili nel suo letto astronave, nell'oscurità di un'unità di terapia intensiva alle 3 del mattino. Di solito, quando mio padre era sdraiato sulla schiena, il suo addome si alzava come la cupola del telescopio di un osservatorio. Ora sembrava non esserci su quel letto. Solo una coperta tirata come la pelle di un tamburo. E poi, sul cuscino, la grande testa argentata di mio padre. La sua testa era inclinata verso l'alto e la sua mascella pendeva allentata. Tutta l'oscurità della stanza sembrava accumularsi nella sua bocca aperta. «Papà, ho bisogno di una battuta», ho detto, rompendo anche solo nella mia testa il silenzio che regnava tra noi. «Sto scrivendo un dialogo per il signor Spock, è presente? Quello di Star Trek». Avevo provato a parlare ad alta voce con mio padre un paio di volte da quando aveva perso conoscenza, dicendogli tutte le cose che avevo letto da qualche parte avresti dovuto dire a un genitore in punto di morte. Non c'è mai stata una risposta. Nessun sussulto di un occhio o di una guancia, nessun fantasma di un sorriso, niente. Io volevo credere che lui mi avesse sentito, che mi avesse sentito dire che lo amavo, che lo perdonavo, che gli ero grato per avermi insegnato ad amare tante delle cose che amavo, tra le quali proprio Star Trek. Ma mi sembrava di buttare un desiderio così una moneta in una fontana senza acqua. Mio padre era scivolato in stato di incoscienza 12 ore prima, circa un'ora dopo che avevano chiuso l'adrenalina endovenosa che gli teneva alta la pressione sanguigna. Fino a quel momento era stato reattivo, irritabile, divertente, debole, confuso, furioso, indiscutibilmente se stesso, in modo molto molto riconoscibile. Aveva evitato l'esercizio fisico per tutta la vita mio padre. È stato gravemente sovrappeso per la maggior parte degli ultimi 40 anni ed è stato diabetico per un decennio. I suoi reni stavano cedendo, anche il fegato non era messo bene. Ma la flebo di un medicinale che avrebbe potuto magicamente riportare mio padre ad una approssimazione dell'uomo che ricordavamo, ecco, quel medicinale lì rischiava di causargli un arresto cardiaco. I medici che lo assistevano avevano cominciato a suggerire con delicatezza e con rammarico che poteva essere giunto il momento di smettere quel trattamento. Si è deciso, non facilmente e non senza riserve, di lasciare perdere e di lasciarlo andare. Si decise anche che quando se ne fosse andato non avrebbe dovuto essere da solo. La mia matrigna e due fratellastri che si erano presi cura di mio padre senza tregua nel corso del suo declino erano esausti. Mio fratello ed io, i figli del suo primo matrimonio, eravamo volati dalla California sperando non solo di passare del tempo con nostro padre, ma anche di dare una pausa a tutti gli altri. Così ho fatto il primo turno di notte e, seguendo la logica della pietà, speravo che potesse essere anche l'ultimo. Spock era un essere irraggiungibile, remoto, perennemente concentrato nella sua ricerca della verità e nel suo lavoro. Si rilassava grazie alle sue solitarie ricerche intellettuali e sembrava a disagio in mezzo alla folla. Era leale e risoluto di fronte ai problemi, ma non era a portata di mano. Eppure di tanto in tanto in situazioni estreme, spesso sotto l'influenza di alieni, Spock veniva accolto da moti di rabbia o di gioia o di dolore. Le emozioni erompevano da quel luogo misterioso in cui erano sepolte dentro di lui. Le sue emozioni erano lì, profonde e calde, ma tenute sotto controllo da uno sforzo costante. Ho messo da parte l'iPad, sono sceso dalla poltrona letto su cui mi trovavo e sono andato a letto di mio papà. Erano le 4 del mattino passate. Mio padre ha deglutito. Respirava. Ogni tanto il suo respiro cedeva il passo alla tosse cruda ma nefasta che lo aveva afflitto per anni. Solo che ora ogni colpo di tosse terminava con uno strano lamento che poteva essere un dolore forse, ma che suonava più come una forma di frustrazione. Come il lamento che gli entrava nella voce quando era stanco dei litigi o stanco delle sciocchezze. Non ha mai aperto gli occhi, ma ogni tanto i suoi lineamenti si avvicinavano a una qualche forma di espressione facciale, sorpresa, fastidio, scetticismo, prima di allentarsi. Per la prima volta quella notte considerai la possibilità che sopravvivesse. C'era una logica implacabile, animale, nell'aggrapparsi alla vita, nel morire solo quando non si poteva più aggrapparcisi. Sono sceso dalla sedia per accarezzare i capelli di mio padre, cosa che non avevo fatto o che non avevo nemmeno pensato di fare nei 55 anni della nostra conoscenza. Il contatto con lui mi sembrava strano. Non è che non ci siamo mai toccati, ci abbracciavamo per segnare arrivi e partenze e nel corso dell'ultimo anno, quando la sua scomparsa ha cominciato a sentirsi più imminente, avevo cominciato, al momento dei saluti ad esempio, a dargli un bacio affrettato. Ma mi chiedevo quanto tempo fosse passato da quando avevo toccato la testa di mio padre e se quell'arco di tempo, diciamo mezzo secolo, ecco, fosse normale o strano. Mio padre ha resistito per altri 6 interminabili giorni senza riprendere conoscenza. Quando morì Riuscii a farlo durante un brevissimo intervallo di 5 minuti, proprio quando uno dei miei fratellastri, che avevano entrambi vegliato al suo capezzale per tutta la settimana, era uscito per una tazza di caffè. Più tardi qualcuno mi ha detto che non è raro che le persone in punto di morte, anche se completamente incoscienti, spesso sembrano scegliere proprio il momento in cui sono stati lasciati soli per andarsene. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo trovata sul New Yorker, è scritta dallo stesso Michael Chabon, si intitola The Final Frontier, che poi fa parte dell'intro di Star Trek, spazio, ultima frontiera. Arrivano messaggi di persone che hanno vissuto lo stessa situazione di Michael Chabon, ad esempio ci scrive Nicolò che voleva salutare il nonno prima che fosse serato con la morfina e non ce l'ha fatta perché era al lavoro. Noi continuiamo a raccontare e tra poco capiamo anche qual è la differenza tra rimpianto e rimorso. Ora le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Abbiamo immaginato che il rimorso possa essere una sorta di nuovo vizio capitale, legata soprattutto alle cose che non diciamo, alle cose che ci teniamo per noi e poi appunto viviamo questo profondissimo rimorso o rimpianto. Questo è un altro grande tema, ne parlavamo poco fa in redazione. Qual è la differenza tra rimorso e rimpianto, che non è veramente mai così chiara? Per provare a parlarne, per capirne un pochettino di più, noi l'abbiamo chiesto a Davide Algeri, che è psicologo, terapeuta e coach. Dottor Algeri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie mille per essere qui, innanzitutto. Grazie a voi. Qual è la differenza tra rimorso e rimpianto? Cos'è uno e cos'è l'altro? Sì, allora, come dicevi prima, Matteo, sicuramente molto spesso si fa confusione perché tendono ad associarsi un po' le due parole. Allora, la differenza sta nell'esperienza, nel senso che se da un lato il rimorso rappresenta una sorta di turbamento che noi sperimentiamo, che nasce da un errore che si sviluppa in seguito ad un'esperienza di vita che facciamo, quindi c'è un'esperienza, in questa esperienza sbagliamo e di conseguenza questo ci porta a sperimentare un rimorso. Un rimorso, ok. Un errore che, del passato che rimorde, quindi continua a mordere un po' la nostra coscienza nel presente. Oh, okay. Nel caso del rimpianto invece c'è un'assenza di esperienza, okay? Chiarissimo. Quindi sono delle occasioni che ci sono sfuggite, un po' come dire dei treni persi che non siamo riusciti a prendere, molto spesso perché non riusciamo a decidere e quindi spendiamo del tempo nell'effettuare una scelta fino a quando poi non arriva il momento ultimo e siamo costretti a prendere quello che ci capita. Ma quindi in questo caso un po' come rimorso sta per rimordere, rimpiangere sta per ripiangere. Infatti sì, proprio per questo, rimpiangere, piangere nuovamente per la scelta che non siamo riusciti a fare, per quell'occasione che ci è sfuggita e che non potremmo mai sapere come sarebbe andata diversamente da come effettivamente è andata. Quindi diciamo è preferibile, Davide, ci diamo del tuo a questo punto, visto che stiamo chiacchierando di cose molto intime. In genere è preferibile da un punto di vista psicologico il rimpianto piuttosto che il rimorso o viceversa? Ma dal mio punto di vista è meglio il rimorso, nel senso che alla fine, dal mio punto di vista, è meglio fare le esperienze piuttosto che evitare di farle, no? Perché noi in teoria siamo anche gli errori che facciamo, no? Si dice. Assolutamente sì, e anche perché gli errori ci insegnano a crescere, a capire dall'esperienza come comportarci diversamente le volte in cui si può presentare una situazione simile a quella che effettivamente si è presentata. Poi ovviamente gli errori, un po' come capita nella vita, cioè, possono essere più o meno gravi, ma questo non dipende da noi. Davide, quando ti trovi davanti a dei pazienti che lottano con un rimorso molto profondo, che consigli dai? Quali sono, diciamo, i punti che gli dai da seguire, se esistono dei punti o dei suggerimenti, insomma? Allora, come dicevo prima, il rimorso è un'esperienza che si genera che è un'esperienza in cui si fa un errore, e questo errore molto spesso genera una sorta di dolore. Quindi di conseguenza la persona torna, o meglio il passato torna nel presente, aprendo un po' una ferita che è più o meno profonda. Okay. In questi casi, ad esempio, il suggerimento che do io è quello di passare in mezzo al dolore per venirne fuori. E in che modo? Un modo potrebbe essere quello di provare a raccontare per iscritto, in maniera romanzata, quello che è l'evento e il dolore associato all'evento. Okay. Questo perché aiuta a elaborare un po' ciò che è accaduto, perché molto spesso in quei casi si cerca di dimenticare quell'evento lì. Quindi in qualche modo il racconto può essere d'aiuto, il tornare a rievocare quella storia. Assolutamente sì. Davide, io ti ringrazio moltissimo per la tua di fatto consulenza, e quindi magari ne approfitteremo ancora in futuro. Grazie ancora a Davide Algeri. A disposizione. Buona giornata. Grazie mille. Ciao ciao. E ha giustamente detto Davide, ha usato una locuzione molto precisa: passare in mezzo al dolore, passare attraverso il dolore, è quello che racconta anche la nostra nuova storia seriale, che è cominciata 2 giorni fa, è cominciata questo lunedì. Mauro Pescio ha deciso di raccogliere una storia che parla di superbia, dove per superbia intendiamo la sensazione di potere essere a livello di Dio. Questa è proprio la definizione vera e propria che dà la Bibbia stessa di superbia. E qui si parla di un uomo, di un giovane uomo che 2 anni fa è entrato in una scuola americana e ha deciso di aprire il fuoco sui suoi ex compagni e su alcuni professori. Mauro ha trovato una ragazza che è di origini italiane, i genitori sono italiani, sentirete la voce sia del padre sia la sua, che però parla in inglese, quindi la tradurremo noi, che era presente in quella scuola in Florida quando è accaduto quello che è accaduto, e lei sta realmente passando attraverso il dolore suo, dei familiari delle vittime, e ce lo racconta minuziosamente. Scusa Giacomo, tu da genitore, prima di questo episodio, cioè avvertivi il pericolo della scuola? No, assolutamente no. Il pensiero c'è sempre, però c'è anche il pensiero, c'è anche il ragionamento che facevo io, che gli Stati Uniti sono enormi, sono 350 milioni di persone. Statisticamente che succeda nella scuola dove va tuo figlio sono bassissime. Ti consoli con quel concetto lì. In genere si pensa che queste cose succedano un po' di più nel Midwest, in zone più remote, dove magari c'è gente svantaggiata. Di conseguenza non ci pensavamo. Ogni tanto lo senti, ma pensi che accada sempre da un'altra parte, oppure non lo senti e basta. E poi c'è anche il fatto che non fa più tanto notizia ormai. Ti rassegni un po', pensi alle statistiche bassissime e con quelle ti calmi. È l'equivalente delle paure di un attacco terroristico. Tutti sappiamo che accadono, però non è che per questo non si esce più di casa. Quando capita, alzi il livello di guardia e poi cerchi di andare oltre, fai finta di niente, vai avanti, altrimenti non sarebbe sopportabile. Non si dovrebbero mandare più ragazzi a scuola. È vero che negli Stati Uniti il pensiero delle stragi nelle scuole è molto vivo, ma pensi che vivi in un quartiere tranquillo, in mezzo a gente benestante, ti calmi un po', non fai quei ragionamenti quotidianamente, altrimenti diventerebbe insostenibile emotivamente. A scuola abbiamo ogni anno delle esercitazioni contro gli attacchi, per prepararci ai diversi tipi di attacchi. Le prime 2 esercitazioni riguardano proprio gli attacchi con arma da fuoco nelle scuole. Ci spiegano come accadono e soprattutto come dovremmo fare per metterci in salvo. Ci insegnano di come non stare accanto alle porte, nelle aule, di cosa serve per mettersi in salvo, cosa fare se l'attacco avviene quando sei in bagno, ad esempio. se l'insegnante non è in classe in quel momento oppure se è stato colpito. Soprattutto ci hanno insegnato a stare molto in silenzio per non farsi sentire da chi sta compiendo l'attacco. Tutto questo è un lavoro capillare che si fa a scuola e che ti impone di convivere con quello stato di allerta senza nemmeno che tu te ne accorga. Spesso ci fanno sentire le registrazioni delle chiamate alla polizia durante gli attacchi in altre scuole per spiegarci come è avvenuto. Ma tutto questo, anche se è ripetuto spesso, non ti fa immaginare che cosa possa accadere realmente nella tua scuola. Una puntata dal peso specifico molto molto importante, grazie per averci mandato le storie come questo e per continuare a farlo, grazie per ascoltarci, riascoltatevi, mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it. Ringraziamo, ogni tanto giusto farlo, uno per uno, Paolo Corleoni, Anita Panizza, Luca Micheli e Mauro Pescio che rendono possibile questo programma. Ora diamo la linea al GR e voi recuperate i podcast se per caso avete ascoltato solo a spizzichi e bocconi questa puntata. Le storie sono davvero storie che raccontano moltissimo delle persone che l'hanno raccontata e un pochettino anche di noi. Linea al GR, torniamo domani a raccontare alle 15, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!